Investire informati. Abbiamo già presentato Stefano Volpato, direttore commerciale appunto di Banca Mediolanum, con il quale peraltro nel corso della trasmissione torneremo a parlare anche dell'altro grande tema del momento, i PIR, i piani di risparmio, che sono la grande novità dell'industria di quest'anno. Ormai tutte le SGR ne hanno lanciati, continua però ad ampliarsi anche dall'altra parte la platea dei titubanti che temono una ricaduta positiva eccessiva in borsa, una bolla dei PIR e degli indici delle società che rappresentano l'universo investibile. E poi c'è anche chi sostiene che il vantaggio fiscale sia una sorta di specchietto delle allodole che rischia di confondere risparmiatori. Avremo modo appunto di confrontarci e di mettere a tappeto anche questi argomenti. Aspettiamo le vostre domande, le vostre considerazioni all'800 24 00 24, alla scuola di risparmio di oggi. Ma dottor Volpato, partiamo dal primo tema che ci siamo prefissati di affrontare, la questione della liquidità che giace sui conti correnti degli italiani, di molti che hanno deciso, almeno per il momento, non so per quanto ancora continueranno a mantenere questo atteggiamento, di non allocare in maniera diversa il proprio risparmio. Intanto le chiedo, quando parliamo di liquidità parliamo di che cosa? Proprio di denaro sul conto corrente o magari di altre forme anche a brevissimo termine di risparmio? Per esempio i vostri clienti cosa vi raccontano? Beh, direi innanzitutto che il dato sullo stock di risparmio finanziario delle famiglie è un dato estremamente positivo, perché il dato ultimo indica la ricchezza finanziaria italiana intorno ai 4.200 miliardi di euro. Quindi anche superiore rispetto a quel settembre 2016 che ho detto assolutamente prima. Sì. È ritornato in più in su. Si continua a risparmiare e a risparmiare molto, e questa è una grande risorsa per il nostro paese, e magari poi ne parliamo dopo. Sì. Io credo che se parliamo un po' di questi temi legati alla liquidità che oggi vede, per darvi un riferimento, oltre il 70% delle famiglie italiane che scelgono di mettere le proprie risorse finanziarie esclusivamente nei conti correnti o in obbligazioni di brevissimo termine. Io credo che per comprendere dovremmo un attimino contestualizzare quello che è successo, perché nel mondo del risparmio degli italiani è arrivata una sorta di meteorite che ha veramente cambiato completamente il panorama. E io faccio riferimento a due elementi importanti: l'introduzione del bail-in, che è una situazione del tutto inedita per il risparmiatore. Il risparmiatore ha sempre concepito la relazione con la banca come la relazione con il massimo della sicurezza. Quando noi abbiamo qualcosa di prezioso, il luogo comune cos'è? Mettiamolo in banca, perché banca è uguale a sicurezza. E certamente chi ha legiferato in quel senso, o ha normato in questo senso, si è probabilmente scordato di comprendere che non è che fai una nuova norma, e chi è abituato a concepire la banca come la sicurezza assoluta cambia semplicemente perché qualcuno ha scritto qualcosa di diverso. Ricordiamo, per chi avesse dimenticato il senso di questo termine, il bail-in è quella nuova norma che da un anno e mezzo disciplina il meccanismo di risoluzione bancaria. Se una banca fallisce, le ricadute sono su tutta una serie di soggetti, che naturalmente si arriva anche al correntista, naturalmente per patrimoni però superiori ai 100.000 euro, punto. Questa è proprio in estrema sintesi la norma. Sì, è chiaro che questo ha colto del tutto impreparato il risparmiatore italiano, che oggi deve avere chiaro che il primo elemento che deve porre nelle sue dinamiche di scelta del suo interlocutore è la solidità del suo interlocutore. Questa diventa una sorta di precondizione, mentre fino all'altro giorno investire in sicurezza significava il modo in cui noi andavamo a investire, oggi prima del modo in cui investire è il con chi che deve essere posto l'attenzione. Questo è un primo quadro che ha disorientato ovviamente il risparmiatore. Quando ognuno di noi, in qualsiasi ambito della nostra vita, siamo disorientati, la prima cosa che facciamo è ci blocchiamo. Certo. E quindi abbiamo un atteggiamento attendista. Il problema grave in tutto quanto questo è che questo nostro essere attendisti lo paghiamo a carissimo prezzo, un prezzo che probabilmente il risparmiatore non si può neanche permettere di pagare, e mi riferisco all'altro grande elemento. L'altra meteora? L'altro aspetto di questo meteorite che è caduto, che sono i tassi bassi, i tassi negativi. I tassi negativi sono una sorta di paradosso. Se voi provate, voi siete bravissime con la vostra trasmissione a spiegare in maniera semplice e intuitiva alle persone, alle cose, io vorrei che provaste a spiegare a mia mamma che ha 78 anni che cosa sono i tassi negativi. Cioè dovreste spiegare che lei presta a qualcuno il denaro e già per il fatto che lo presta certo. corre un rischio e questo qualcuno, se glielo ritornerà, glielo tornerà in forma ridotta. È qualcosa che è addirittura paradossale. Ma in questo, sul fatto, noi spesso abusiamo del termine cambiamento epocale. Però se pensate che la Banca di Scozia, che è l'istituto che misura i tassi di interesse europei da più lungo periodo, lo fa dal 1624, quindi parliamo di 400 anni, ci dice che cosa? Non sono mai stati dei tassi di interesse così bassi. Il tutto questo in un momento nel quale, ahimè, le esigenze nostre si sono dilatate, non si sono ridotte. Mm-hmm. Cito solo due cose estremamente presenti nella vita della quasi totalità di chi ci sta ascoltando. I nostri figli stanno molto più a lungo con noi. A volte non è che terminano il ciclo di studi, sono immediatamente impiegati. Esatto. Viviamo, Dio volendo, molto più a lungo. Esatto, noi andiamo in pensione molto più tardi. E quindi le esigenze sono molto dilatate. È chiaro che in uno scenario del genere, oggi il risparmiatore che cosa fa? Si blocca ferma. E questo rischia di diventare un problema molto grosso. Certo, anche perché insomma i temi che lei ha messo a tappeto non sono facili da digerire tutti in un colpo solo. La banca che può fallire, che ti può portare via anche tutti. No, tra l'altro mi incuriosiva molto questa considerazione che lei ha fatto. È che nonostante anche le questioni bancarie che noi abbiamo richiamato spesso e che teoricamente dovrebbero portare ad un'esasperazione della sfiducia nei confronti dell'istituzione bancaria, in realtà il bail-in ha prodotto l'effetto contrario. E quindi comunque la banca viene vista ancora come quella cassaforte solida verso la quale riporre la totale fiducia. Quindi lei mi conferma che c'è questa relazione tutto sommato di serenità o di riconsiderazione anche della relazione con la banca? No, io credo la seconda sia più corretta. C'è una grande attenzione, sempre più ovviamente marcata in questi tempi, perché la situazione delle quattro banche, piuttosto che delle banche venete, poi di Montepaschi, ha creato un clima generale nel quale si è alzato moltissimo il livello dell'attenzione. Ed è chiaro che qua la vera sfida per tutti gli istituti, per tutti i protagonisti di questo mondo, è cercare di ricreare un contesto di fiducia nel risparmiatore, ed è una fiducia che deve tornare a essere ben riposta, perché è ben ripagata, ovviamente. Certo. Allora, volevo solamente segnalare ad un ascoltatore che ci ha chiamato all'800240024, che non manderemo in onda perché è una domanda piuttosto particolare, ma suggerisco a Vincenzo di scriverci a cuoredenari@radio24.it, perché voleva raccontarci che ha un bel patrimonio investito in azioni del Banco Popolare Pugliese, un'altra vicenda simile a Veneto Banca e Popolare di Vicenza, di azioni non quotate in borsa e azzerate. Quindi Vincenzo ci scriva, perché magari la potremo mettere in relazione appunto con o qualche associazione dei consumatori o qualche legale che segue più direttamente questi casi, quindi magari le darà anche una procedura corretta per potersi muovere e rivendicare il suo denaro, perché ovviamente adesso in questo caso è congelato perché la banca non rimborsa. Nel frattempo sono arrivate già le 11.30, devo raccontare cosa succede oggi in borsa. È un momento peraltro molto vivace in borsa, perché praticamente si quota una società al giorno, finiscono quasi tutte proprio su quei segmenti sui quali investono i PIR, i piani di risparmio lanciati da poco. Anche stamattina sai che si quota anche fra un po' Alfio Bardolla, sai? No, che è venuto da veramente. Noi sì. Tra oggi e domani, non mi ricordo se domani forse è la giornata. Caspita. Di quotazione. Sì, molto vivace. L'AIM è il segmento delle piccole e medie imprese che sta vivendo in particolar modo questa vivacità. Dall'inizio dell'anno si sono quotate ben 22 aziende, sono quasi 90, per cui insomma speriamo che questo fermento sia una buona notizia. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore e Denari nella puntata del giovedì che come sempre è dedicata alla scuola di risparmio. Nicoletta si è rimessa le cuffie perché fra un po' vado col domandone. Ero peraltro indecisa se farlo oggi, dopodiché il nostro ospite di stamattina, Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, mi ha dato una bella idea. Che poi mi è sfuggita, non me la sono scritta bene, Nicoletta era pronta lì con le lezioni di memoria. Perché ormai brava. Pratico, sì. Pratichi la teoria, no la teoria, no, la pratica sì, di... quando ho un concetto, Deborah mi insegna sempre tante cose, e allora per fissarmele le abbino a delle immagini. E non posso svelare questa, ma insomma vedi che me la sono subito ricordata. Infatti, mentre a me era sfuggita dice, perché la volevo scrivere. Non so, Napoli, a me viene in mente, che ne so, il Vesuvio, babà. Piuttosto il babà, fai quello che vuoi. Io col cibo oppure, vado subito. Va bene. E anche su questa c'è qualcosa di molto riconoscibile che vi porta alla soluzione. Allora va bene. Allora, ti assegno il domandone, no, Nicoletta. No, dai, pensaci tu. No, no, perché io ho già lavorato, basta. Vabbè. Scusa, allora, Stefano Volpato, eravamo rimasti alla relazione di fiducia con la banca. Cosa sta cambiando nell'atteggiamento degli italiani che a fatica risparmiano ancora molto, ma in questo momento sono come congelati, tengono molto denaro sui conti correnti, su strumenti molto liquidi, su strumenti di breve termine, persino sulle obbligazioni governative che, se andiamo a guardare il botta ad un anno e anche di scadenza un po' più ampia, rendono zero e sotto zero, quindi scelte che hanno dell'incredibile, eppure gli italiani per paura continuano a farle. Detto questo, a proposito di obbligazioni governative, oggi si riunisce la Banca Centrale Europea. Se avessimo una stretta, non avremo una stretta monetaria in termini di aumenti di tassi di interesse perché non è ancora il momento, abbiamo ancora il quantitative easing, ma secondo lei che scenario dobbiamo aspettarci sui tassi, tanto per preparare i nostri amici ascoltatori / risparmiatori? Credo che questa sia una domanda che ci aiuta veramente a fare chiarezza. Credo sia ormai sotto gli occhi di tutti, abbiamo sentito prima di questo allentamento della politica del quantitative easing, e ormai ovviamente di dominio ormai pubblico come il sostegno delle banche centrali abbia creato una sorta di ecosistema dove ormai da tempo tutto sale, tutto è positivo. È altrettanto evidente come questo sistema è un'eccezione alla storia, non c'è mai stato un periodo in cui le banche centrali siano state così determinanti nell'andamento dei mercati. E che cosa si è creato? Una sorta di mondo artefatto, un mondo finto, un mondo creato in laboratorio. È chiaro che un mondo di questo tipo, se viene portato avanti per troppo tempo, finisce con il creare dei vizi e inesorabilmente poi dei danni conseguenti. Quindi il fatto che questa sorta di mondo perfetto sia ormai ai titoli di coda, io lo vedo molto positivamente perché ci permetterà di tornare ad una situazione normale, come la chiamano, la normalizzazione, eccetera. Ecco. Però dobbiamo avere tutti quanti chiaro, e io parlo soprattutto per noi operatori, come tutto quanto questo sia fuorviante, come tutti quanti noi dobbiamo liberare il risparmiatore da preoccupazioni che non lo dovrebbero minimamente toccare. Per esempio? Per esempio, non soltanto, io dico questo, non soltanto... No, perché magari, che ne so, c'è qualcuno all'ascolto che si accinge a fare nei prossimi giorni una chiacchierata col proprio consulente e vediamo se la persona che avrà di fronte adotterà questo atteggiamento, lo facciamo mettere alla prova. Allora, noi dobbiamo innanzitutto chiarire chi è la persona che ci sta ascoltando, perché se la persona che ci sta ascoltando è un investitore professionale, ha intenti speculativi, eccetera, questi argomenti che abbiamo trattato così in maniera estremamente sintetica sono il cibo di cui si nutre. Ma se parliamo di risparmiatori, io ribadisco, questi sono temi che non lo dovrebbero minimamente sfiorare. Non soltanto perché spessissimo l'analisi e questa voglia di domandarci che cosa succederà domani mattina è scarsamente attendibile. Io faccio tre esempi che ci ricordiamo benissimo perché sono successi l'anno scorso. Vi ricordate con Brexit che cosa si diceva? Che sarebbe che la scelta del popolo, dei cittadini di Sua Maestà, sarebbero rimasti appunto nell'Unione Europea, quindi nel giro di una notte. Non soltanto, Deborah, se mi permette, il fatto che si prevedeva era l'Inghilterra esce e i mercati crollano. Anche sì. Ed è successo esattamente il contrario. Allora, diciamo che in una settimana un po' di turbolenza c'è stata, poi hanno digerito molto rapidamente. Lei mi porterà anche l'esempio di Trump, forse anche il referendum italiano, eccetera. Quindi dico, ecco, rispetto a tutto quanto questo, noi ci troviamo di fronte a una situazione nel quale oggi il risparmiatore può scegliere una strada sicura, libera da qualsiasi tipo di interferenza, perché assolutamente non intaccabile dall'andamento di breve dei mercati. Ed è quella della pianificazione patrimoniale, cioè, in una parola molto semplice, quello di cercare di mettere al centro delle nostre attenzioni le esenze, i bisogni, i progetti di vita dell'individuo. Di vita, senz'altro. Io noto spesso, soprattutto anche negli approfondimenti tecnici, come questo sembra un linguaggio scontato. Purtroppo non sì, è scontato. Sì, oppure un po' effimero e poi naturalmente... È un linguaggio invece, secondo me, risolutivo. Certo, guardi Volpati, io sono pienamente d'accordo con lei, con Nicoletta abbiamo fatto non so quante trasmissioni per far passare questo messaggio, investire con la logica della diversificazione, secondo obiettivi di vita, eccetera. Detto questo, negli ultimi 10 anni ce ne capita una ogni 3 mesi e le persone si spaventano, per cui io direi che secondo me bisogna combinare un po' i due aspetti, viaggiare con l'ottica dell'obiettivo finanziario, e su questo è sacrosanto, non far però neanche quello che si disinteressa completamente rispetto alle tematiche economiche e finanziarie, perché sennò qualche sorpresa poi ti coglie un po' così e ti spaventi, per cui quantomeno per prepararsi e avere anche 2 argomenti di conversazione col consulente e chiedergliene conto, andare un po' più con delle armi un po' meno spuntate rispetto a queste, non trova, proprio deve disinteressarsi la persona secondo no, lei? No, io credo che deve assolutamente aver chiaro che la situazione attuale ha posto fine a 2 elementi che avevano caratterizzato la scelta del risparmiatore italiano, ed erano il fai da te, certo, e l'approdo facile, semplice e sicuro dell'obbligazionario governativo che ha determinato la storia del risparmio italiano degli ultimi 40 anni. Ci faccio l'inciso, poi la lascio concludere. Se la persona si documenta sui fatti finanziari, conosce i motivi per cui i tassi di interesse sull'obbligazione di Stato sono a 0 e sotto 0. Se non sa nulla, va dal consulente e gli dice: sei tu che non mi fai rendere il mio portafoglio, e non conosce appunto la dinamica circostante. Quindi per questo che secondo me devono combinarsi molto bene i 2 aspetti. Sì, io credo che oggi le opportunità che ci sono, che vanno nella direzione di fornire degli strumenti che hanno in sé elementi di grande valore, la diversificazione di cui continuiamo a parlare come elemento fondante di frazionamento del rischio e di grande sicurezza, sono oggi a disposizione in maniera estremamente semplice. Se questi strumenti sono all'interno di un progetto più ampio, io arrivo a dire che è difficile che il risparmiatore si trovi ad avere delle sorprese. Oggi io non voglio ridurre tutto a semplicità, però sono fortissimamente convinto che oggi il risparmiatore italiano, se ben seguito, se all'interno di una relazione consulenziale corretta, veramente è molto difficile che abbia delle sorprese negative. Perché, vede, quando lei ha parlato ogni 3x2 succede qualcosa, è vero, ma se uno ha la corretta impostazione, tutto ciò che succede nei mercati rappresenta esclusivamente delle opportunità, se, ripeto, all'interno di una corretta impostazione. Anche perché storicamente si sono sempre mossi per una ragione o per un'altra, non è che per natura siano statici, no? I mercati finanziari, anzi, sono molto dinamici e per questo, come diceva lei giustamente, danno molte opportunità di investimento, ma naturalmente l'approccio deve essere quello del professionista. Allora, sono le 11.45, devo andare di nuovo alla prossima pausa, che è il traffico, dopodiché andiamo all'altro tema principe del momento, che è quello dei peer. C'è anche una domanda di un ascoltatore che ci darà l'assist per partire con il prossimo ultimo approfondimento di oggi. Cuore e denari. Questo è il nostro rischiatutto Volpato, se l'aspettava? E me l'ha dato lei l'assist per fare il domandone di questa mattina. Io non volevo farlo e invece volevamo sapere praticamente qual è la banca più antica d'Europa che monitora i tassi di interesse storicamente. Esatto, per cui ce l'ha detto all'inizio della trasmissione, siete stati attenti, appartiene anche a quell'universo mondo geografico che abbiamo citato e che l'anno scorso ha fatto tremare per qualche giorno anche i mercati. 800240024, questo monitoraggio dei tassi avviene dal 1624, qual è la banca che fa questo lavoro da così tanto tempo? Allora, il domandone è questo, quindi se volete guadagnarvi i libri di Cuore e Denari dovete chiamare in diretta, come ha fatto invece Yuri da Trento, che ci dà l'opportunità di introdurre l'ultimo tema di oggi. Yuri, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Volevo sapere, ho circa 10.000 euro che mi si sbloccano in settembre, volevo investirli. Ho sentito di questi peer che sono praticamente un po', da quanto ho capito io, una similitudine al PAC. Un consiglio, visto che c'è esperto, cosa poter fare? Grazie Yuri. Allora, i peer sono la grande rivoluzione, introduzione nel mondo del risparmio di quest'anno. In realtà i peer non sono dei PAC, perché il PAC è la modalità con cui si può anche investire nei peer, così come si può utilizzare questa modalità, i piani di accumulo, appunto, con altre forme di risparmio. I peer sono partiti tra febbraio e marzo, dottor Volpato. Il governo, che è stato il grande artefice di questa operazione, perché li ha introdotti con l'agevolazione fiscale, con la legge di bilancio, pensava di raccogliere entro la fine di quest'anno si erano dati questo obiettivo, sono già a 4 e hanno rilanciato di nuovo con le previsioni di raccolta entro la fine dell'anno. Tutto ciò, insomma, ovviamente entusiasma le SGR che li hanno confezionati. Anche la vostra banca ne avevate già in casa, li avete resi compliance, come diciamo. Perfetto. Noi, e state facendo anche un'ottima raccolta. Allora, se viene da lei la signora Maria e le chiede come fa Yuri, ho sentito parlare di questi peer, Stefano, ma mi spiega che cosa sono? Allora, i peer nascono da un'intuizione, ma più che altro dal fatto che il governo è andato a mutuare delle situazioni di grande successo internazionale. Do solo un elemento per brevità: pensate che sono stati introdotti gli omologhi di peer, sono un filino diversi, però sono riconducibili ai nostri peer. In Inghilterra nel 99, e oggi il patrimonio raccolto nei peer inglesi sfiora i 600 miliardi di sterline, quindi mamma un mia, successo senza precedenti. Stessa cosa dicasi in Francia, in Giappone, in Canada, quindi è qualcosa, un'idea internazionale. L'idea qual è? Quella di mettere in contatto tutta questa grande risorsa che è rappresentata dal risparmio delle famiglie italiane con il mondo dell'impresa, mondo dell'impresa che in Italia, ahimè, è finanziato quasi totalmente verso il canale bancario. Certo. È bancocentrico il sistema imprenditoriale italiano, soprattutto la piccola e media impresa. Di qui l'intuizione di dire: se il risparmio del privato va a incontrare l'impresa Italia, ha una forte agevolazione fiscale, che consiste in che cosa? Ogni individuo, quindi ogni codice fiscale, minori compresi, può accantonare fino a 30.000 euro l'anno con un massimo di 150.000 euro. Se facendo questo le 30.000 annue rimangono investite per 5 anni, c'è una totale esenzione fiscale, quindi non c'è nessun sul tipo capital gain, di tassazione sul capital gain, volgarmente chiamato interesse, sul guadagno, il rendimento di questo investimento, l'abbiamo fatte tutte le traduzioni. E non c'è nessun tipo di tassazione nemmeno in caso di successione, quindi qualcosa di straordinariamente appetibile. Ma devo dire che il risparmiatore che ha fatto questa domanda ha introdotto un tema per il quale noi, approfondendo proprio questo tema, possiamo comprendere perché noi assisteremo a un successo inaspettato e clamoroso di questo strumento. Perché? Perché così come può approfittare la persona che dice io mi piace molto l'idea fiscale, e a chi non piace in Italia certo, l'idea di avere un'agevolazione fiscale, posso mettere queste 30.000 euro all'anno in questo strumento fino a 150.000 euro, ma c'è una gran parte di persone che magari hanno possibilità diverse. E allora è vero... Più contenute, dice più Milton. Contenute. Allora è vero quello che diceva lei, Deborah, nel fatto che il PAC è solo una modalità, ma il risparmiatore da solo è riuscito a intuire quella che è forse la più straordinaria portata di questo strumento, cioè il PIR inteso come una sorta di contenitore per l'accumulazione e in questo caso il più efficiente che c'è oggi a disposizione. Mm-hmm. Perché se noi consideriamo una persona che accantoni, faccio un esempio banalissimo, 500 euro al mese, quindi 6.000 euro all'anno in un PAC PIR, impiega 25 anni per completare questo serbatoio e a 25 anni avrà il mercato che avrà lavorato moltissimo per lui, incrementando moltissimo quello che lui ha investito, e provate a pensare in questa accezione qual è la portata straordinaria del fatto che non paga il certo, 26% di imposta. Allora, ci sono, come lei sa, perché sicuramente anche con questi, tra virgolette, detrattori del PIR vi sarete confrontati, cioè chi sostiene si rischia di portare il risparmio degli italiani troppo sul mercato domestico, ma in realtà poi le cifre, insomma, siccome più di quello non si può investire, non è neanche detto che ci sia tutta questa concentrazione del risparmio sul territorio italiano, sulle aziende italiane, eccetera. Però, insomma, c'è chi sostiene anche questo. Come si risponde ad una obiezione di questo tipo? Questa è un'obiezione assolutamente pertinente, e la risposta la possiamo trovare ancora una volta andando a vedere che cosa è successo. In realtà l'obiezione più specificatamente viene mossa in questo senso è: il listino italiano è un listino di dimensioni ridotte, soprattutto sulla parte piccole e medie aziende. Io ricordo che il prodotto per essere peer compliant investe innanzitutto il 30% ovunque nel mondo, del 70% rimanente il 49% può essere investito nel listino superiore e almeno il 21% deve essere investito nelle piccole e medie aziende. L'obiezione è in che cosa si concretizza? Nel dire: in questo segmento ci sono poche aziende, dovendo ricevere molto denaro è chiaro che si può generare una bolla. E qua credo che proprio l'esperienza inglese ci sia di grande chiarezza, nel senso che al corrispondente dell'AIM italiano, nel 99 in Inghilterra c'erano circa 100 aziende, ebbene dal 99 a oggi sono state quotate oltre 3.600 nuove aziende in Inghilterra. Quindi significa che il trasferimento del risparmio anche in termini di capitalizzazione sulle aziende c'è stato, quindi anche per le aziende è stata una buona opportunità. C'è un po' meno corsa in Italia, ma qualcosa si muove. Davamo le cifre anche prima, sull'AIM c'è un buon trend di nuove quotazioni, ne abbiamo 22 dall'inizio dell'anno, e peraltro fino a qualche tempo fa addirittura le piccole società italiane che non volevano quotarsi ragazzi in borsa andavano proprio sul segmento inglese, esatto, perché trovavano peraltro un interlocutore un po' più facile con cui dialogare, dopodiché si è di nuovo riportato verso di qua il flusso. È vero questo, è anche vero che negli ultimi tempi stiamo assistendo ad una fortissima accelerazione. Voi stessi ne date notizia, l'ultima settimana le IPO sono state molto più numerose. Quest'anno abbiamo già ampiamente superato tutte le IPO dell'anno scorso. A livello globale, il collega Vito Lopes raccontava che dallo scorso anno, dallo stesso periodo, c'è un 90% in più di nuove quotazioni a livello appunto mondiale. E quindi praticamente significa che effettivamente c'è fiducia. Speriamo che tutto questo non si trasformi in una bolla pronta a scoppiare, Volpato, no? Speriamo di no. Io credo che siamo invece ai primi passi di qualcosa di straordinario che darà un contributo incredibile al nostro paese. Io vorrei citare semplicemente 10 secondi, perché stiamo andando in chiusura. Vorrei citare semplicemente una cosa: la nostra Italia è campione del mondo in moltissimi ambiti, siamo primi in tantissimi settori, dalla meccanica di precisione alla ceramica, al food, ambiti anche sconosciuti più, e credo che questa passione, questa capacità e questo talento debba trovare riscontro in un mondo moderno, e i peer saranno veramente un elemento che aiuterà in questo senso. Ne riparleremo in autunno. Gianfranco da Napoli, la risposta al domandone in 2 secondi? La Banca di Scozia. Bravissimo, porta a casa, gli regaliamo un PIR con investite Deborah e Nicoletta, ma da un treno più che altro, più che da risorse finanziarie. Grazie Stefano Volpato. Grazie a voi. Auguri per le sue vacanze. Noi invece torniamo domani a chiudere la nostra settimana e vi racconteremo anche, lo raccontiamo un po' di cose, non lo so, magari chi lo sa. Buona giornata.